sennò sono incasinato, capito? Sono incasinato perché sennò non asciuga, devo stuccare e fare un casino. Mi macchia tutto il muro l'acqua, è un casino, devo fare un bel lavoro, stare anche attento, riempire bene tutto in giro il tubo di cemento, e poi ci dicono è tutto, e se no sono veramente incasinato, capito? Sono volentieri sarei passato. Ma dimmi un po', il ponte se non ti serve più qua. No, mi sono arrangiato con la scala. Con la scala, quella in ferro, mi ha dato il mio vicino e ho fatto tutto con quella lì, già viene bene lo stesso. Stai attento perché con la scala non ce la fai. Comunque, sappi che roba di attrezzature già ci abbiamo tutto. Ehi, non c'è problema. No, poi già domani già c'è Franco, io da solo no. Anzi, ho già fatto anche troppo, devo solo innestare il gomito e metterlo dentro il tubo e chiudere tutto, poi fare l'altro, ma l'ho fatto da solo quello. Capito? L'ho fatto da solo e tubi sono già quasi a misura, me li ha mandati con Gucci, non c'è problema. Poi con Salvatore Gucci ci conosciamo bene, una vita che andavo a prendere materiale per l'azienda, perciò me l'ha mandato direttamente col camioncino, lui tutto a casa, una busta di curve, raccordi, tubi, tutte le fasce mi ha mandato con i cosi, con i tasselli, tutto mi ha mandato, non ho dovuto prendere niente. Ma così quello dove c'è la Ford, prima del ponticello di arrivare a Brincome, quello lì sta dicendo? Sì, lì e poi anche a Valle Doria. Quello vende anche tubi per fare tubi d'acqua grossi di tutte le misure, per se fare anche il palo di sostegno per qualche antenna, ho visto c'è di tutto. Tutto c'è Salvatore, ma anche a Valle Doria sono ben forniti. Noi come azienda andiamo a prendere tutto lì. Anche, ma io lo conosco da quando sono entrato a Leggia, fino al 96 mi pare, no 94, ci conosciamo con Salvatore, perché ero sempre a Valle Doria, a Santa Maria Provina, lì capito, poi quando ho fatto anche il capannone a Sassari, a volte prendevo anche materiale da Sassari, però mi mandavano a ritirare. Va bene. Dai raga, io c'ho fame, non ho manco pranzato oggi, quindi vi saluto, grazie alle due chiacchiere, Franco, ci aggiorniamo domani mattina e niente, vabbè, se ci siete dopo rientro, altrimenti pazienza, ok? Sì, sto aspettando che mi chiamano, rimango qua in quel Rix, vediamo un pochettino, se da qualcuno verrà. E ok, dai, io chiudo, ciao Cla. Ci sentiamo una mattina con una bassa, ok, ciao Robè, dai, se coincide più tardi vado a fare un po' di carica batteria anche io, dai, a dopo. Ehi, ciao, buona carica a tutti, dai, io vediamo se entra qualcuno nel frattempo, avanti sul 10 se c'è qualcuno, se no faccio altro. Ehi, Roberto, sono io Fabrizio. Dimmi Fabri, è bene. Claudio c'è da un secondo, ci siamo ancora qua? Siamo calato lì, neanche 30 secondi è tempo di salutarlo, ma forse c'è la radio accesa, ci sei Claudio? Comunque Fabio dice alla grande, ti posso dire, non sento nessuna differenza tra il 60 e quello, e se vogliamo essere più pignoli, mi pare che c'è pure meglio del 60. L'importante è che va bene, era problemi con il microfono, di cambiaggi, di tutto. No, una bomba Fabio, complimenti per il lavoro, grande, come al solito. Ok, questa cos'è? Che radio sta usando? La solita, il mio, il 60 con 440. Ah, sono vendibili esperimenti. L'altro giorno di un attimino acceso mi arrivavi a fondo scala con cos'era? La 48, che cos'era? Col baracchino. Ma un segnale allucinante, cioè, adesso sei 950, quello eri ancora di più, probabilmente c'avevi qualcosa sotto. Quello lì, adesso lo provo. Questo è il 60, che stai usando, originale o modificato? Non c'è uscito di radio Fabrizio. Non stai uscendo di radio, guarda se c'è qualche connessione sul microfono. Sento di segnale però non ti sento, sento solo il bip. Fabri, ho tante muta. No, non so se tu mi stai ascoltando, comunque non stai uscendo, Fabri. Sì, ho visto, strano però. Ma è fatto bene, amico, molte volte con questi microfoni balurdi, se come non ti tocca un coso, un contatto, no? Proprio muta, portante muta. Adesso controllo, potrebbe essere successo qualcosa, l'ultima volta ha funzionato, adesso lo riprovo, prendo un altro microfono uguale. Ma poi sì, prima di 9,50 abbondanti, poi sei sceso a 9,40. Che avanti che vuoi entrare? Avanti qua su 10. Vabbè, adesso sta andando, forse è rifilato male. Sì, adesso è perfetto, Fabri. Sta anche spingendo, sei quasi 9,60. Quanto esce con la radio? Come? Quanto esce, quanti watt tira fuori? No, questa poco, adesso ce l'aiutino. 9,60? Con i picchi modulati 9,60. Ma tu la mantova ce l'hai in cima al traliccio, Fabri? Che cosa? Il microfono SH, che cos'era? Roger Bibi, all'ascolto, canali, squelcio automatico, questo è lo squelcio automatico. Per un attimo non è riuscito di radio, poi è andato tutto bene. E allora aspetta che me lo apro, deve esserci qualche problema. Se il microfono è nuovamente, qualche cosa, aspetta. No, adesso tutto ok, perfetto. Adesso ti compri il camion, un camioncino, ti prendi un Iveco Turbo Star. Sì, mi compro quello. Anche adesso sono col. Adesso compro forse lo spiottino vecchio, se che non fa mai contatto, adesso lo controllo. E poi mette una fesseria, una piccola saldatura, un pennino, come si chiama, di quelli del coso, del cablaggio, ma è appena lui difettoso. Niente, non sta uscendo Fabrizio. Che vuole entrare? Che è avanti? Ciao vabbè, Tino. Ciao Tino, ma solo tu hai provato altre radio perché ho visto dei segnali diversi. No, io stavo accordando, poi c'è un tratto. No, questo è un segnale, no, ce n'è un altro 9, tu sei 9,15 più con i picchi, hai qualcosa di più. No, questo è fatto così, aspetta. C'è questo 9 che entra, avanti che vuole entrare. Ma questo aspetta, guarda a me, adesso lo faccio io. Tu sei questo che senza portare, senza la modulazione? Sì, sto accordando. Ah, infatti non riuscivo a capire, volevo sognare di 9 e poi di colpo saliva a 9,15. Infatti siccome, vabbè, l'accordatore automatico, poi si è bloccato. Non pensavo però che usciva l'importante da voi. Ho capito, una persona? Ho detto, non pensavo che usciva importante. Ma tu come la modulazione? Però ti sento un po' leggermente saturo, Tino, la voce è troppo amplificata, blu. Addirittura è bassa, no, sono ancora trattato io, Sembra che stai parlando con qualcosa davanti al microfono. Aspetta, passo un pochino, ora si è migliorato. Fa un passaggio più lungo. 1, 2, 3, prova. Sì, modulo. Tecniche di trasmissione. Stai andando a colpi, come è questo tic tic, cioè parti da 9,10 e arrivi sopra i 9,20. Infatti so. No, allora non era il tuo segnale, no, era qualche di un altro, no. Tu sei 9,15, però si sentiva un picco pip, pip che arrivava a 9,20 superato. Aspetta, sono io. Sì, questo sei tu, però c'era un segnale molto più forte, qualcuno che non vuole entrare. Ecco qua. Adesso? Ah, parlare. Guarda, 1, 2, 3. Tieni presente che ho un po', una voce un po' rauca. Sì, no, no, la voce deve essere chiara, rimbombante, forse è un po' troppo amplificata, sembra che sia in una stanza vuota. No, è sempre stata così, vabbè, io ti posso abbassare, aspetta, ho abbassato un pochino, ho migliorato. No, no, parlo di amplificazione, non parlo di segnale, di amplificazione sembra molto amplificata. Ecco, ho abbassato un po' il mic, guarda un po'. Sì, adesso un po' meglio, va bene, ma che radio è questo? Il 450, ho abbassato un pochino, sai, guarda la TV, 1, 2, 3. Sì, adesso va molto meglio. E il microfono 60. Sì, sì. No, adesso va benissimo. Poco fa eri troppo amplificato, sentivo un rimbombo dietro e sembrava che stessi parlando con la mano davanti alla bocca. Comunque c'era anche Fabrizio che stava facendo delle prove. Vediamo se riuscite a sistemare. Fabrizio, sì? Nulla, perché c'era questo 48, ovviamente c'aveva un problemino al microfono, a momenti usciva di radio, altri momenti era muto. Ok, comunque ti ascolto bene adesso, Tino. Sì, ma ho buttato. Ciao Fabrizio, se mi ascolti. Ho notato che c'era il Mickey Gin a mezzogiorno anziché essere alle 10, capito? Quindi sicuramente non lo so fare, l'ho toccato e non me ne sono accorto. Sono prove che una volta che le regoli non stai lì a provare a fare. Adesso per dire il carrier l'ho abbassato, ma aspetta, che va in modulazione, devo sparare solo anche qua. No, no, ma siccome io ti ascolto sempre bene, me ne sono accorto subito, magari ascoltandoti con un baracchinetto, con l'altoparlantino del suo baracchino, uno non se ne fa caso, però quando ascolti con una radio un po' migliore ti toglie fuori tutte le imperfezioni. Sì, sì, sì, comunque, scusa, auguri, ho saputo l'ubicata. Ah, riferita alla patente? Yeah. Vabbè, è andata bene, dai. Adesso tocca a te, Tino, mettiti sotto. Ma guarda, sinceramente... Non voglio parlare qua. No, ho capito, ho detto non voglio parlare qua. Ah, va bene. Comunque se servono cose, informazioni, mi ha mandato queste sessioni di questo ingegnere, un grandissimo istruttore, tra l'altro sa parlare molto bene, è molto elementare, è chiaro, le ha mandate a Luca che poi le ha mandate anche a Franco California. Sono molto dettagliate, spiegate in modo veramente facile da capire e poi ci sono i quiz. Dopo sono 22 e dura le lezioni, si parte dalla tecnica oppure puoi partire al contrario dalle normative, dipende da cosa vuoi fare, molto chiare e soprattutto poi le dice in un modo semplice, dai, facile e intuitivo, e fa degli esempi molto elementari e poi ci sono i quiz, dopo come conclude l'argomento ci sono i quiz e te li spiega, dice può quello fare e lui dice la risposta sì, no oppure no, l'altra è veramente fatto bene, perché su internet trovi di tutto, questo è veramente fatto da Lari di Genova, questo credo che sia un professore, ma perché ne sa troppo, grandissima persona. Sì, sì, sì, poi vabbè, sai cosa roba, che sinceramente, allora io a testa buttata lì nel lavoro, quindi sono incasinato, non ho tempo di neanche di leggere un fumetto, di prima gira se mi metto a studiare. No, ma come ho detto, ti devo lasciare tra qualche minuto che mi hanno chiamato, come ho fatto io, senza grosso impegno, te lo metti 10 minuti di lezione, te l'ascolti, poi quando hai voglia ti fate dire, l'importante è che sia una cosa continua, cioè fatta nell'arco di un mese, non buttarti come fanno molti, studiando la mattina, la sera, ore, così non va, deve essere proprio a livello come ti leggi un giornalino di text, leggero, finché hai voglia di leggere, poi lo blocchi e te lo fai, fatto in quel modo lì, secondo me il sistema migliore, se lo fai troppo pesante non ne comprendi nulla. Però Tino, ti devo lasciare, male, se ci sei ci sentiamo dopo perché mi hanno chiamato. Dai. Ok, saluto anche a Fabrizio se mi sta ascoltando e tutti gli eventuali amici qua sul 10. Ciao ciao. Sì, è come dai. Ciao. Arriviamo qua in quel Rix che devo fare con l'ATC e poi se c'è qualcuno riprende sono. A dopo. adesso? Ora ci sei, ciao Fabri. Ciao Tino. Oh, ho cambiato lo spinotto, ma non è quello secondo me. Perché col parla ascolta va. Senta, va, non so cosa è successo. Chiama, frate, tutto Roger qua, dai, c'è 1-3-1 da parte mia, ragazzi. Attenzione. Attenzione, canale 40. Adesso non sono uscito. Eia, ciao Tino, ciao Fabrizio, sta per uscire, dai. Ciao Luca, ciao. Vediamo di provarlo, vediamo se si riblocca. Si è uscito. Buonasera, Marco Scorpion dalle alture di Figheddo. Ciao Marco, ben sentito. Ciao Marco, ben ascoltato, dopo tanto. Ciao Fabri, ciao Tino, ben risentito, ciao a Luca, in preparazione per uscire, quando Pizzino va andare in giro, fine settimana, Ok, va bene, io qua adesso stavo lavorando, ero già anche prima in questo con Claudio e il Natalino e compagnia cantante, e poi ho dovuto prendere, ma sono ritornato perché l'avevo lasciato sempre acceso, avevo un po' di suonare e vedo che funziona, vedo, aspetta che sì, riprendo, sì, ecco qua, il pedalino del push to talk con questo sistema di amplificazione esterna sta funzionando bene, poi mi dite come va la qualità dell'emissione, allora sentiamo Fabri. Io non riesco a capire perché ogni tanto si incanta, non vorrei che sia qualche errore interno. Prima di aprirlo voglio essere sicuro, ho cambiato lo spinotto, quella a 5 punte, perché anzi a 4 è questo, perché niente, perché pensavo che fosse quello, e cioè ogni tanto mi dà l'impressione che non è stato in radio. No, non ho l'impressione, una parte del cuticino è uscita, poi ho ripreso, si schippava e poi riprendeva, c'è ancora qualcosa che non sta funzionando correttamente, va bene, invece qua io vedo che fortunatamente questo lavoro sta molla, riprendo, ok, poi ti mando la foto, l'818 Fabri con il preamplificatore esterno, con un microfono, tutta una bacana, coppia eccetera che sono riuscito a trovare, non mi hai detto come va la modulazione, adesso sentiamo un attimo, Tino, come stai carissimo, buonasera. Ciao Marco, ciao, un po' raffondato e basta, comunque, del resto sto bene, ho un problema qua in casa, credo che sia un, come si chiama, l'inverter, credo che sia l'inverter, non so se mi potete aiutare, cosa posso fare per poter abbassare il QRM che mi manda nella radio, perché io lo stacco e non ho QRM, invece è attaccato, ce l'ho quasi a 7-8 ed è un problema, stavo pensando di fare un cavo di massa e portarlo dall'inverter a terra. È un problema, è così come qua da me, quando accendo le luci a LED giù crea problemi. È un problemino, ma non mi ha detto niente, la modulazione è com'è, sì. Va bene Marco, va bene. Non è amplificatissima, però va bene. Non è amplificatissima. Ai, mi hanno fatto abbassare prima, allora rivediamo un attimo, mi hanno detto che non era, che era troppo alta, allora dove sono andato a finire col volume della M? Sentiamo intanto che cerco qua il parametro, sentiamo se Fabrizio ha risolto il problema. No, non l'ho risolto, non lo so, non riesco a capire, sta andando, ho il microfono, perché poco fa ho cambiato lo spinotto per un po' così. Sì, non mi so che stia andando, non so, no, così non te lo so dire. Adesso è fatto tutto il passaggio per intero, ma poi ho aumentato l'amplificazione, si sente? Qual è il problema? Io solamente da regolare il livello di amplificazione del microfono, volevo capire se così va bene o se posso, aumentare. Lo stai usando? Vi siete sovramodulati. Ho sentito che è entrato anche Claudio, basta lui che ho cenato. No, no, vale mio, io ancora non ho cenato, è tutto in fase di preparazione, ho detto buonasera a tutti. Ah ecco, pensavo non avessi già cenato tu, io invece ancora no, mi hanno già chiamato, ma sono ancora al primo giro, c'è ancora, quando c'è il primo giro c'è ancora un pochino di tempo, la campana è il primo giro, perciò ne ha ancora altre due, dopodiché si passa al bastone. Ma così non lo devo mettere. Fabri, non stai uscendo. Ehi, poi controllo, si è spento stranamente anche l'amplificatore, boh. Ascolta, no, io così c'è troppo. Così c'è troppo, c'è una radio. Secondo me la radio è compressa. Allora portiamolo così, così va bene, o è ancora troppo alta o cosa devo fare? Va bene, faccio tre prova, oh yeah. Oh, vai Tino, io sono troppo vicino a Marco, vai Tino. Per me Marco è quello che si attorno all'altro Marco, per farti capire un po' la modulazione, non è chiaro, non è, un po' compressa, come che stai spingendo troppo di watt, capito? Ok, vediamo un po' se scendo a questi livelli qua cosa succede, è cambiato qualcosa? Così mi è migliorato un pochino. Allora proviamo ancora, vediamo un po' se scendo ancora così, 1, 2, 3, dal microfono. È migliorato Marco, è migliorato il radio dal primo passaggio, dal secondo è migliorato il radio, è più chiara, non è compressa, però non so cosa tu stia utilizzando, questo è il mio parere, poi gli altri non so come ti ascoltano. Vediamo un po', vediamo Fabrizio se ma Fabrizio si è concentrato con, io lo so, ha già acceso di tutto, saldatori, saldatori spettro, lo fa in bricio, lo fa in bricio, la moglie disperata chiamando, i bambini piangendo, che voglio cenare, niente, lui sposta tutto, finché non ha risolto questo, già ritorniamo domani sera, ora di continuato. Adesso ha attaccato un altro, ma adesso vi butto a contrattare, si è stato pure un amplificatore, si è spento tutto, non esce di radio, non so cosa può essere successo, una dietro l'altra, non lo so, adesso do un'occhiata veloce, Quella bassa non è la radio, è un po' strana quella radio, tende ogni tanto anche a quasi attaccare, come che ci sia qualche cosa inserita, qualche funzione. Non è notte 18, guarda, posso scendere così e vedere un po' se così va meglio. Adesso vediamo un po' se magari parlando, perché era un po' troppo lontano forse, se parlo così vicino che cosa succede? È come che c'hai qualcosa che ti sta tagliando qualcosa, non lo so, a scatti. Ascolta Fabio, invece questo 50 come va? Perfetto, sembra il 60, non è che ti noti la differenza. Vabbè, anche con Roberto ha detto che non c'è la differenza. Ottimo, beh, perché sei passato a prenderti la busta. Non c'è bisogno della batteria, quella lì te l'avevo montata l'altro giorno. Cosa c'entra? Magari capita, le serve e non ce n'è. Io non sapevo manco la componentizia, ho chiesto anche Antonello, ho detto anche che tra si sorprende, Dio di condensatori, bimba, mi fai un po' di bustina, ma chi se ne ricorda i valori? Non c'è problema, te l'ho detto. Preso io, non è un problema, in parte che vada bene, come ti sembra il tutto? Ah, per me va bene, mi sono messo le cuffie, non noto differenza, boh, se Tino non mi ha detto niente, sto usando un MC50 Tino, praticamente col circuito di amplificazione del 60, com'è? Ma guarda, per me non è cambiato. Anche Roberto Maestro mi ha misurato, anche tra 60 e 50 è uguale, preciso di dito. Sono contento, cacchio, vabbè Fabri, ce ne abbiamo tre, comunque almeno su tutte e tre ci sono i microfoni, io sto usando il 430 numero 2 per capirci, con l'MC50 ed è quello che volevo, perché l'MB+5 sì, esce benissimo, esce bene, però a me piace avere questi tipi di microfoni, va bene. Marco, tendi come ti ha detto Fabrizio, non uno strappo, tendi a mancare qualche così, cioè la frase rimane un po' spezzata, non so come dirtelo, però la tonalità potrebbe essere anche buona. Ma adesso se faccio un passaggio in questo modo succede qualcosa, la modulazione è sempre così tagliata, oppure no? Perché sono già al secondo giro di campanella, se non male si sentono altri rumori. No, io ti posso dire, come tonalità potrebbe anche andare così quando l'hai abbassata, però ripeto, come ti ha detto Fabrizio, tende a mancare la modulazione, mancano le parole, tende a capito, manca, come che ci sia qualcosa che impedisce di fare proprio il passaggio bello, limpio, tranquillo, capito? Ma ho capito, allora devo fare un'altra prova, aspetta, prima di andarmene, aspetta, dai, riprendi, riprendi il tino. Guarda, io ho questo rumoraccio, mi sa che devo andare fuori a attaccare questo inverter, mi sta suonando correndo a 9, addirittura, devo risolvere. Cos'è il condizionato? No, allora io fai a te, ho quattro pannelli solari abbastanza grandi e li ho collegati a quattro batterie in parallele in serie da 115 ampere l'una a gel, quindi ho un buon accumulatore di corrente e da lì ci ho messo un inverter per poter usare la 220 anche tra virgolette in casa, capito? Nel caso dovesse mancare che ne sono luce, attacco la presa lì o corrente 220. Però tenendo acceso l'inverter mi crea problema la radio, nel senso con l'alternata, ecco. Sì, però se sia l'inverter, quindi vuoi andare a attaccare l'inverter praticamente. Ma vabbè, siete segnali abbastanza alti, quindi lo passo tranquillamente, però se c'è, per dire, una trattazione che arriva qua a Santiago 5 non la sento assolutamente, perché mi fa da 7 a 9 quasi, quindi pensavo di aver risolto, invece nulla. Devo fare, vorrei fare una massa dall'inverter, provare a vedere se risolvo una cosa, se no non lo so. Non lo intendo. Prova a mettere delle ferriti nel cavo, lungo il cavo delle ferriti. Prova a vedere se succede qualcosa. Magari sortisce effetto positivo. Capito? Provare delle ferriti, quelle per il blocco di ritorni RF e cose del genere, vedere che cosa succede. Un po' quelle che mettiamo nei microfoni. Ascolta, adesso ho fatto una modifica. È successo qualcosa con questa modifica? Ho cambiato un cavo oppure non è successo niente? La radio è migliore. Ha migliorato tantissimo ed è più stabile la modulazione, non manca più di parole. Però l'ha rifatto appena, però ha migliorato tantissimo. Allora, vediamo un po'. Guarda come sono le cose. Allora, adesso ho capito che niente, devo usare questo tipo di cavo piuttosto che quell'altro. Vediamo un po' se facendo un passaggio lungo, se continua a verificarsi il problema oppure no. Vediamo. No, io non l'ho notato. Neanche io, Marco, quello che ti dico io, per via della segnale prendo un po' con le pinze, perché ho questo disturbo qua. Adesso la tua modulazione per me va più che bene, non si è andato a mancare, però il segnale faceva 9.10, 9.15 e a volte scendeva un pochino, ma prendo con le pinze questo. C'ho un apparatino, cioè QRP, adesso non so qua quanti watt sta dando perché non c'ho sotto il vatometro, ma intorno a 5 watt dovrebbe essere questo qua, penso, in AM, forse meno, perché poi in 5 watt, 6 watt da in SSD, forse da intorno ai 4 watt e mezzo in AM o una cosa del genere. Va bene, dai, meno male, il caso risolto, era il cavo del microfono, ha messo un altro e... Non è andato la male. E va molto meglio. Saluto, sentiamo un po' se Fabrizio ha risolto i problemi, ciao, buona cena, più tardi, ciao. Adesso io mi sposto che faccio un po' di prove e voglio capire cosa c'è, ci sono due apparecchi che sono bloccati. No, Marco, hai problemi, secondo me sembra piccare anche il segnale passi da 9.5, 9.10 e sono sopra e poi scendi a 8.9 e riprende quando ti manca la modulazione. Allora, già avevo ragione, Marco. l'ho notato anche io, infatti stavo entrando. Marco, stavo andando a colpo il segnale, non era stabile. Batterie, perché sta andando con tante batterie inserite, capito? Probabilmente ciuccia parecchio, il pacco ovviamente tende a attenuare, poi non è sempre come quando viene alimentato esternamente, capito? È così, è quello il problema. Ok, chiarissimo. Bene, grazie di tutto. Buonasera, allora, ci sentiamo, ciao. Ok, dai, ci sentiamo, Marco, mi sto spostando. Ciao Marco, ci ascoltiamo, dai, ci riascoltiamo, sto aspettando mi chiami a cenare, avanti Roberto. Non so se mi ha sentito Marco, però lo stavo ascoltando, c'era problemini, che okay, penso che già se li risolve. Ok, ciao di nuovo a tutti, sono rientrato, ho mangiato veloce. Ciao Tino, ciao Fabrizio che me l'ha notato prima, e ciao Claudio, c'è qualche altro, non lo so. Perché sono Tom Marco, giro la rotta, non ho più tempo. Ciao Marco, ci si ascolta, dai, fate sentire anche in massa. Mi è andato, se no prende colpi. Fabrizio dove sta andando? Sta toccando perché? Non puoi fare quale prove? C'è una nota adesso, Vabbè, tu ti intendi di invertere? Sì, qualcosa ce l'hai anche tu piazzato. Diciamo sì, ma lo sono montato io, non ricordo. Che problema ti fa? Immaginato casalingo. Immaginano casalingo, non ho capito, mi scusa. L'inverter, cioè ti ha fatto il suo mezzo. Tu adesso immaginati a me che c'ho un casalingo, quindi con quattro pannelli solari grandi, alimentato a quattro batterie in parallelo e in serie, e poi l'inverter che fa alimentare una presa, ecco. Nel caso dovesse mancare la corrente ce l'ho a disposizione. Però mi sta causando un'alternata sulla radio, praticamente se io stacco il segnale è molto basso, se invece lo tengo attaccato il corrente mi sale a 9. Allora dobbiamo capire che tipo di inverter ce l'hai, se ce l'hai sino usuale pura, onda sono usuale pura o non modificata. Sicuramente ce l'avrei modificata. No, è pura, ed è a 24 volt. E allora è strano questo fatto qua. Prova a mettere qualche ferrita, magari ti può aiutare qua con la radio, che problema ti fanno? Cioè ti aumenta il QRM? Esatto. È strana questa cosa, è molto molto strana. Ma tu scusa, la radio la rimetti a 12 volt, immagino, no? Vabbè, lascia stare la radio questa qua è diventata corrente normale, no? Io ho una presa in un'altra camera che c'è l'inverno attaccato e quindi è in tensione. Ma non è che c'è qualche lampada particolare, lampada a LED dei neon o qualche utenza che ti crea un disturbo, che molte volte non sono filtrati, li sentono parecchio con l'inverter. Oddio, una lampada LED qua vicino a me, ma non penso che se la spengo mi cambia il segnale, posso anche provare. No, non parlo di segnale, di QRM sto parlando, che ti generano disturbi quelli lì. No, non cambia niente, mi sono accorto che spegnendo l'inverter il segnale ritorna stabile, che ne so, 2, 3, come ce l'avete voi. Guarda, la prova si può fare con un analizzatore di rete, però ci vuole uno che ce l'abbia e vedere come cosa sta uscendo da quell'inverter. Bella domanda. Perché sennò è perfettamente pulita la forma d'onda, ti fa dei problemi, è normale, come un alimentatore switching di quelli a 12 volt, c'hanno grossi problemi quelli economici, però è strana, onda sono isolare pura, ma perché non ha avuto qualche smalto o qualcosa del genere, sovraccarico? No, è quello, perché un saccato ed è tornato tutto regolare. Ma non ce n'è un altro per provarlo, più piccolo? Sì, ce l'ho, però adesso mi viene male uscire fuori, attaccare e fare. Credo che non lo faccia. Allora, ne avevo un altro da, mi sembra che era 2000 watt, con picchi positivi a 4000, come questo qua, diversa marca, e non mi ha mai dato problemi. Questo invece sì. Perché lo sai cosa succede molte volte a queste cose? Siccome sono molto delicati, finché funziona, funziona solo bene, basta un temporale, ma non vicino a te, a 10 km, ti dà quella specie di lampeggetto che molte volte te ne accorgi a casa nella luce, nella cosa del genere, ti cambia la frequenza del coso, dell'erogazione, anziché dartela a 50 Hz, a 60 Hz, diciamo quei valori standard, e ti cambia il coso del flusso della corrente, e di lì magari in quel momento lì si è sporcato, è come quando ti passa un componente, una resistenza, un condensatore da un circuito, quelli sono molto molto delicati. Io pensavo di risolvere così con una massa a terra, una cosa del genere, una ferrita lo stesso, come avete detto, ci proverò. Beh, però dico una cosa, io quello che c'ho nel camper è grosso, sembra più di 2000 watt, parliamo nominali, 4000 watt di picco. Allora, quello lì mi ho bruciato due strumenti io, perché poi sono riuscito a ragionare, mettevo gli strumenti che ti danno i volt, l'ampere, l'assorbimento, la corrente, poi c'è un analizzatore che ti dà i watt consumati, la media, eccetera, eccetera. Se lo attaccavo, dicevo, ma perché si rompono questi qua? Proprio usciva il fumo, non riuscivo a capire, poi alla fine con il ragionamento ho detto che questi sono modificati, onda sinusoidale un po' modificata, lo provavo a caso, perfetto, andavo lì, mi ho bruciato due di questi strumenti così, alla fine ho escluso solo l'assorbimento, lo lasciavo solo in tensione, e alla fine il discorso è quello lì, uno era modificato e l'altro era pura, e mi ha fatto bruciare due strumenti, non so se riconosci quelli che ti danno tutte le funzioni, assorbimento, sia in watt che in ampere, tensione media, eccetera, un sacco di cose c'aveva questo, cacchio, bruciato di tutti e due. Ed è il problema l'inverter. Se riprendi sotto a noi e poi non ti perdiamo. Ecco, abbiamo perso. Sì, ce l'ho proprio fisso a nome. È una rottura di scatola. Pensavo di aver risolto invece perché abbiamo fatto prima due pacchi batterie, no? Cioè praticamente quattro batterie, due collegate a 12 12 24, così, e poi messi assieme, poi invece l'ho fatto in serie e in parallelo. Mi avete chiamato? Pensavo che l'avete perso. Non c'è roba al forno, sono tutta lontana. Questo è il 60 col 140T, superiore o inferiore al 430 con l'MC50? Forse l'altra era più spinta la radio. Addirittura, minchia papà, vabbè, ma il 430 c'è il Michi sicuramente più alto, quanti a 2, questi hanno lo glider, quindi sai, non sai mai a quanto è, se è al massimo, se è a metà, se... Però, qualità prezzo va bene anche questa? Sì, a voglia. Vabbè, che quella sia un po' più spinta può essere normale, dai, devo mettermi le cuffie regolarle perfettamente uguali, magari da 2, il Michi Gay lo metto a 1,8, perché quella là è a 2, il Michi Gay, capito, forse spinge di più, però questa già va bene lo stesso, dai. Beh ragazzi, io vi saluto, così non, se mi chiamate, non ci sono, mi dà fastidio, c'ho roba che sto seguendo al forno, ci sentiamo, se ci siete entro dopo, lascio tutto acceso qua, ok? Ciao Tino, ciao Roberto, ciao anche a Fabrizio, se è rientrato a dopo. Ehi, quando vuoi Claudio, con calma, te li regolo uguali esattamente allo stesso livello di microfono, con lo strumentino, con l'indicatore di livello, te lo faccio esattamente uguale, in modo che tu, una volta l'hai regolato, non lo tocchi più, chissà. Con il micro, come si chiama, con il micro game. Sì, sì, vabbè, lo slider 140 di questo è a manetta, no? Deve andare così. E quello del 430 sicuramente è leggermente più alto, quindi devo trovare, farlo uguale a questo, capito? Ma dove siamo tutti uguali. Va bene, dai, ci sentiamo, buona cena per chi non l'ha fatta, ci sentiamo dopo se ci siete, vai ti. Dai, ne approfitto anch'io che mi devo fare a cucinare. Ci sentiamo più tardi se coincide. Ciao Claudio, buona carica, ciao Roberto, anche tu quando tu l'hai già fatta, sto per noi. A più tardi allora, dai. No, io adesso sono qua in radio, sono anche col computer, faccio qualche, non dico un'ora, ma qualche decina di minuti, tanto sto facendo altre cose al computer, tengo acceso la radio, se qualcuno lo chiama adesso qua. Sì, vabbè, aspetta un attimo, lo passo, ecco qua, ho passato un po' il cane che stava andando alle stelle. Ciao, ciao, a dopo. Ciao, ciao, ti dai, buon tutto.